Perfetto giorno, le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Abbiamo piazzato le più moderne microspie dietro ogni interruttore della luce, perfino in bagno. Abbiamo anche microtelecamere. Ha promesso di trovare qualcosa. Perciò trovi qualcosa. Trovi qualcosa contro quell'uomo, non mi deluda. Datagate, spiata anche la Spagna, scrive Il País. L'Europa dice che è a rischio la lotta al terrorismo. Si rinsalda dopo le tensioni dei mesi passati l'asse tra Germania e Francia. Renzi a Radio 24, per la legge di stabilità non serviva il cacciavite ma il caterpillar. Sulla legge elettorale facciamo presto, aggiunge. Tra poco ad Effetto Giorno Roberto Giachetti in sciopero della fame per la riforma del sistema di voto. Tarak Ben Ammar, intervistato da Giovanni Minoli. Se vendessero la RAI sarei pronto a comprare. Su Berlusconi avrete sorprese, non è finito. Oggi intanto l'appuntamento del Cavaliere per la rifondazione di Forza Italia. Tutto sarebbe pronto, vertice intanto con Angelino Alfano. 2 anni fa l'alluvione delle Cinque Terre, le vittime furono 13, i lavori non sono ancora completati. Quando piove le popolazioni locali continuano ad avere paura. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. In apertura dunque avete sentito l'audio da uno splendido film, Le vite degli altri. Torniamo a parlare delle intercettazioni effettuate dalle agenzie di sicurezza americane e dalla NSA. Gli aggiornamenti di oggi. Il Datagate irrompe al vertice europeo, dove i leader firmano una dichiarazione congiunta che suona come monito agli Stati Uniti. Una mancanza di fiducia potrebbe pregiudicare la necessaria cooperazione nel campo della raccolta di intelligence, ritenuto elemento vitale per la lotta al terrorismo, scrivono i 28, chiedendo tutti spiegazioni a Washington. Parigi e Berlino chiedono inoltre, entro l'anno, agli Stati Uniti un codice dello spionaggio che tuteli l'alleanza, ma anche gli Stati. All'iniziativa si unisce anche la Gran Bretagna, ma Cameron si impunta sull'accelerazione del pacchetto legislativo per la protezione dati europea, che previsto ad aprile 2014 slitta invece al 2015. Tutto questo dopo che il quotidiano britannico The Guardian ha rivelato che la National Security Agency americana ha spiato le conversazioni telefoniche di 35 leader politici e militari mondiali. Il giornale ha pubblicato un memo dell'archivio di Edward Snowden, l'ex tecnico della CIA, che ha rivelato pubblicamente il programma di sorveglianza di massa americano. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E andiamo proprio al vertice europeo che si sta svolgendo a Bruxelles. Questa vicenda ovviamente è entrata tra i temi centrali. Enrico Brivio si trova là, si trova a Bruxelles. Innanzitutto buongiorno Enrico. Buongiorno. Sembra rinsaldare questa vicenda un asse tra Francia e Germania che insomma avevamo visto sparire un po', aveva perso un po' di smalto. Sì, diciamo che ci voleva l'orecchio pervasivo dell'amico americano, insomma questa attività di spionaggio così diffusa a far rispolverare l'arrugginito asse franco-tedesco, che su molti punti, come sappiamo, fatica a trovare la sintonia, perché sia nella politica economica, con l'accento della Merkel più sull'austerità rispetto a Hollande, sia sull'unione bancaria con alcune specifiche richieste tedesche, insomma sia diciamo anche sulla progettualità dell'Europa, non è che Hollande e Merkel avessero dato grandi prove. Ora però, insomma, a fronte di un problema comune si sono uniti e hanno fatto un po' da perno per questa dichiarazione comune sottoscritta da tutti i 28 leader europei. Quali possono essere le conseguenze? Secondo te, Enrico, ce ne possono essere anche dal lato delle trattative per l'accordo di libero scambio? Ma diciamo che questa possibilità è stata prospettata ieri dal Presidente del Parlamento Martin Schulz, che tra l'altro sappiamo essere in corsa come successore di Barroso per la futura presidenza della Commissione Europea, quindi un parere abbastanza autorevole. Diciamo che alcuni leader, come in particolare Enrico Letta, ci hanno tenuto a distinguere i due piani, cioè Letta ha detto noi siamo fermi su questa richiesta di chiarimenti, non ci devono essere zone d'ombra, quindi siamo con i tedeschi e i francesi, però attenzione perché i negoziati commerciali sono altra cosa, sono un interesse anche italiano che vadano in porto per gli scambi commerciali. In realtà è inevitabile che qualche punto di di interconnessione ci sia, soprattutto per esempio sulla questione della data protection, cioè della protezione dei dati, che ormai fa parte un tutt'uno, insomma, con gli commerciali nel campo tecnologico. Grazie ad Enrico Brivio, e ci colleghiamo intanto con un'altra persona che si trova a Bruxelles, che è Gerardo Pelosi, inviato del Sole 24 Ore. Gerardo, buongiorno anche a te, benvenuto. Buongiorno a te. Allora, tu oggi firmi un commento sul quotidiano che abbiamo trovato interessante. Il concetto è un po': se non ci si spia tra amici, tra chi ci si spia? Ce lo spieghi? Beh, sono, diciamo, le regole di base dell'intelligence in tutto il mondo. Qui tutti fanno finta di meravigliarsi, ma poi in realtà nessuno si meraviglia, né la Merkel, né Hollande, né tantomeno Enrico Letta, discepolo di quel Beniamino Andreatta, che è stato ministro del Tesoro, della Difesa e degli Esteri, e che conosceva molto bene come si svolgono queste cose nel mondo. Beh, che cosa succede? Che degli nemici si conosce un poco tutto, ma degli amici, proprio perché sono amici, non si conosce la vera attitudine, quello che vogliono fare. E soprattutto tra amici, quando si tratta di concorrenti commerciali, economici, le cose si fanno ancora più importanti, più difficili. Pensiamo alla Cina, per esempio la Germania sta penetrando in maniera molto forte il mercato cinese, ed è un mercato che interessa per ovvi motivi anche gli americani. E poi il Medio Oriente, l'Iran, pensiamo alla posizione di Berlino nei confronti della Siria e delle economie uscite dalle primavere arabe. Beh, non si può dire certo che siano posizioni politiche ed economiche vicine a quelle di Washington. In tutto questo, Enrico Letta che ruolo gioca? Gioca un ruolo sicuramente, ha detto c'è bisogno di verità, bisogna di sgombrare il campo da tutte le zone d'ombra, arrivare a un chiarimento con gli Stati Uniti. Però, come diceva giustamente Brivio, assolutamente nessuna ritorsione, perché quell'accordo di libero scambio che potrebbe essere firmato sotto presidenza italiana alla fine del 2014 interessa molto soprattutto l'Italia. Grazie a Gerardo Pelosi, inviato del Sole 24 Ore, che torneremo a sentire sicuramente nel corso della giornata. Veniamo alla politica. In primo piano c'è l'intervista realizzata questa mattina dal nostro Alessandro Milan a Matteo Renzi. Il sindaco di Firenze, candidato favorito alle primarie per la segreteria del PD, ha parlato anche di legge di stabilità ed è stato piuttosto duro. Vediamo se riusciamo a sentire l'audio. Via! Letta, che è a capo di un governo di larghe intese, che è il risultato del paese, bla bla bla, eccetera, eccetera, dice: io devo fare le riforme step by step, io devo fare una cosa gradino dopo gradino, passo passo. Lui utilizza la metafora del cacciavite. Io, che sono un pochino più un pochino meno prudente e saggio di lui, dico: secondo me occorre invece un investimento non con il cacciavite, ma con il caterpillar. Naturalmente lei è il rottamatore, eccetera. Ma quindi questa a farlo con questa maggioranza, e lo capisco. Ma quindi questa legge di stabilità, ha scelto di fare una legge di stabilità che non è una legge di stabilità rivoluzionaria, ma una legge di stabilità col cacciavite. Da questo punto di vista ha dei segnali di novità e di controtendenza rispetto al passato, ma certo non puoi fare un'azione di quel genere lì. Però va cambiata, secondo lei, in Parlamento? Cioè va cambiata? Questo deve chiederlo agli sviluppo in Parlamento, non so, sai, lì qualsiasi cosa fai devi metterti d'accordo con Brunetta, Speranza, che c'è dell'AIF. Il problema vero è che, non avendo un programma elettorale chiaramente dei cittadini, cioè io mi candido contro di lei, va bene Milano, sì, dice lei, sì. E lei dice tre cose, quelle tre cose poi lei le deve fare, perlomeno questo vorrebbe un sistema elettorale chiaro. Ecco perché io continuo a dire che è importante un meccanismo elettorale in cui sia chiaro chi vince e chi perde, e che sia chiaro chi è il responsabile. Milan contro Renzi, vince Milan al ballottaggio del turno, e Milan dice tre cose, quelle tre cose le deve fare. Ancora la politica. È stata una settimana fitta di retroscena che avete sentito, letto sui giornali e ascoltato. Berlusconi cambia idea sulla rifondazione di Forza Italia, anzi no, alla fine il giorno è arrivato e pare che il Cavaliere sia pronto a dare il via a questo nuovo vecchio progetto, per così dire. Ci racconta tutto Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno. Occhi puntati dunque su Silvio Berlusconi. In gioco oggi c'è il futuro del centrodestra, almeno così come lo abbiamo conosciuto negli ultimi 20 anni. L'appuntamento è allora con l'ufficio di presidenza convocato per le 17 a Palazzo Grazioli. Tutto il dibattito di queste ore nel PDL è finalizzato a questo appuntamento. Non ci sono spazi per altri argomenti, ecco perché è saltata la riunione di questa mattina convocata sulla legge di stabilità. Quanto all'ufficio di presidenza, si ritroveranno solo i membri della versione originaria del 2008, un gruppo ristretto di 24 persone, di questi 19 sono i cosiddetti lealisti e solo 5 vicini all'attuale governo. Obiettivo del Cavaliere: accelerare il percorso verso la nuova Forza Italia, azzerando tutti gli attuali incarichi interni a partire da quello di Angelino Alfano. Secondo molte interpretazioni, una scelta del genere porterà inevitabilmente ad una spaccatura interna con obbligate ricadute su Palazzo Chigi. La possibilità che l'ala governativa possa accettare di rimanere nella nuova Forza Italia pare infatti complicata. Un faccia a faccia Berlusconi-Alfano precederà comunque l'ufficio di presidenza. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta, e sentiamo su questo il punto di Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Ormai con Berlusconi è difficile distinguere quanto delle sue mosse discende da un minimo di strategia politica e quanto dall'ira e dalle frustrazioni generate dalle vicende giudiziarie che lo stringono d'assedio. L'ultima idea, azzerare tutte le cariche e procedere di gran lena verso la nuova Forza Italia, ha proprio l'aria di una vendetta verso Alfano e i cosiddetti traditori. Al tempo stesso si crea il clima da guerriglia parlamentare di cui parla Brunetta. Ma tutto questo alzare la tensione non si sa dove porti. Provocherà una scissione del centrodestra prima o poi, ma sarà piuttosto la scissione dei berlusconiani dalla linea moderata portata avanti da Alfano e dagli altri, tanto più che finora anche Berlusconi ha sempre votato la fiducia al governo. Per cui la vera scissione ci sarà quando la nuova formazione passerà all'opposizione, se davvero vorrà farlo, e sarà un'incognita. Il Cavaliere non è finito, ha detto questa mattina l'imprenditore finanziere Tarak Ben Ammar, intervistato da Giovanni Minoli in Mix 24, e però Ben Ammar ha parlato anche di Rai. La Rai nel 2016 scade la convenzione con lo Stato che gli affida in esclusiva il canone. Ecco, secondo lei in quel momento potrebbe essere privatizzata? Io penso che sarà una cosa molto positiva privatizzarla, come ha fatto la Francia con TF1. Così la politica esce fuori dalla televisione, che è un grande problema. Ovviamente poi, per rinnovare la concessione, dovremo vedere voi italiani che linea editoriale il servizio pubblico dovrebbe avere. E a questo punto, se la RAI è vendibile, siamo qua. D'altra parte, su Iris si è comprato Wind e Telecom forse i spagnoli . E il lusso italiano i francesi. Perché due arabi non possono essere socio con altri italiani in una RAI se è privatizzata? Senta, lei dice: conosco Berlusconi nei suoi segreti più intimi, non c'è scelta di cui non sia stato al corrente. Qual è stata la più felice fra queste scelte? I figli e la creazione della TV. Quindi lei mette 20 anni di politica fra parentesi, se non capisco male. No, molte cose nella politica bene e altre meno bene, ovviamente. Ah, e la scelta più infelice? Quando si è lasciato con Veronica. Perché? Tutti e due certamente responsabili, in una coppia non si sa mai il perché. Oggi si apre l'assemblea dell'ANM, l'Associazione Nazionale dei Magistrati. Sta seguendo i lavori Alessandra Schepisi. Alessandra, buongiorno. Sì, buongiorno. Basta con attacchi scomposti alle sentenze, con campagne giornalistiche offensive e intimidatorie, con la rappresentazione della giustizia come piegata a scopi politici. Tutto questo è un oltraggio per le toghe, ma anche un grave pericolo per la democrazia. Una lunga relazione, quella del presidente Sabelli, che ha aperto l'altro giorno dell'Associazione Nazionale Magistrati, e non poteva non esserci un riferimento alle polemiche seguite a provvedimenti giudiziari che hanno riguardato Berlusconi, che pure Sabelli non ha mai nominato, polemiche, scontri che, ha detto ancora Sabelli, hanno impedito le riforme necessarie. Giustizia e società all'orizzonte possibile, questo è il titolo della kermesse che vuole a questo punto guardare al futuro. Occorre voltare pagina, recuperare al più presto, dice Sabelli, una condivisa responsabilità nel segno del rispetto per l'indipendenza e l'autonomia della magistratura. Quanto alla legge Severino, l'ANM ritiene che occorrano correttivi vista la persistenza di gravi e diffusi fenomeni di corruzione. Amnistia sia indulto invece sono soluzioni effimere per le carceri, reato di clandestinità inutile e dannosa. Intervenire è stato anche il ministro della giustizia Cancellieri, garantirò l'indipendenza delle toghe, ha detto, aggiungendo che la riforma della giustizia non è più prorogabile. Ad ascoltare in sala le relazioni il capo dello Stato napoletano, che però non ha rilasciato dichiarazioni. E da Roma è tutto. Grazie Alessandra Schepisi, noi ci fermiamo adesso per la viabilità e poi ci ritroviamo. Abbiamo qua in studio con noi, benvenuto, Roberto Giachetti. Buongiorno a tutti agli ascoltatori. Giorno di sciopero della fame? 19. 19esimo giorno di sciopero della fame per la riforma della legge elettorale. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ancora il Datagate in primo piano, ha parlato poco fa il ministro degli esteri Emma Bonino, dice dalle informazioni che abbiamo non risulta un coinvolgimento italiano. Spiata anche la Spagna, scrive, e il paese, l'Europa, dice che è a rischio la lotta al terrorismo. Renzi a Radio 24 questa mattina, per la legge di stabilità non serviva il cacciavite ma il caterpillar. Sulla legge elettorale facciamo presto, dice il Movimento 5 Stelle, convocato da Napolitano per parlare appunto di riforma del sistema di voto, decide di non andare al Colle. Tarak Ben Ammar, intervistato da Giovanni Minoli, se vendessero la Rai sarei pronto a comprare. Oggi l'appuntamento del Cavaliere per la rifondazione di Forza Italia, tutto sarebbe pronto, vertice intanto con Angelino Alfano. E in apertura di questa seconda parte, come già vi dicevo prima, incontriamo Roberto Giachetti, deputato del Partito Democratico, al 19esimo giorno di sciopero della fame. Come sapete, noi ogni giorno stiamo ospitando e continueremo a farlo almeno fino al 31 ottobre, giorno No Porcellum Day, almeno una persona che fa questa staffetta, che un giorno decide di fare lo sciopero della fame per un giorno, il digiuno, per solidarietà nei confronti di Giachetti. Oggi no, naturalmente, perché abbiamo lo stesso Giachetti in studio. Allora, come andiamo? 19esimo giorno di sciopero della fame, quanto abbiamo perso in termini di chili? Guarda, non mi sono pesato oggi, ma credo che staremo ampiamente, avremo superato i 7 chili ormai, perché insomma si sente. Ma c'è una qualche speranza che ci si arrivi? Oggi vedo questi segnali nuovi di tensione. Napolitano cerca di raccogliere le forze politiche per ragionare un po' più intensamente sulla legge elettorale. Forse anche un segnale che si aspetta il voto da un momento all'altro. Ma non c'è dubbio, anche perché Napolitano l'ha sempre detto che per sciogliere le Camere vuole una legge elettorale diversa, e questo soprattutto lo vogliono gli italiani. Il problema è che non dobbiamo fare peggio del problema che abbiamo, nel senso che una legge elettorale nuova vuol dire una legge elettorale che non sia un porcellum camuffato. E questo al Senato è purtroppo molto difficile, perché il PDL dice chiaramente che non vuole cambiare né le liste bloccate né altro che il premio di maggioranza, cioè sostanzialmente trasformare questa legge elettorale così com'è solo in un proporzionale puro, il che schiuderebbe la strada a larghe intese per i prossimi 10 anni, e questo ovviamente non è accettabile, questa non è una mediazione, questo è un inganno e noi non possiamo accettarlo. La posizione del suo partito le va bene in questo momento, quella del PD? Diciamo la posizione prevalente di coloro che si sono espressi su questo, e soprattutto la posizione di chi mi auguro diventerà presto segretario, mi vede concorde, cioè quella di dire che dobbiamo riconsegnare agli elettori la possibilità di essere arbitri attraverso la scelta dei propri rappresentanti e attraverso un sistema bipolare che consenta alla fine del voto di sapere chi governerà per 5 anni e chi per 5 anni starà all'opposizione. Appena si fa la legge elettorale si va a votare, secondo lei? Scioglie le Camere, Napolitano? Beh, insomma, la situazione mi sembra abbastanza complicata. Adesso io non riesco a capire. Pensate solo che noi 15 giorni fa sembrava che avessimo risolto tutti i problemi con la fiducia. Sembra il gioco dell'oca, siamo ritornati da capo a 12 e riviviamo esattamente, forse anche un po' peggio, lo stato di fibrillazione che c'era 15 giorni fa. Come questo possa essere ovviato io francamente non riesco a immaginarlo, nel senso mi sembra veramente molto difficile. È facile che si vada al voto, quindi? Mi sembra, diciamo, se continua così mi sembra impossibile non andarci, nel senso. C'è il sottosegretario al Ministero dello Sviluppo, la Vicari, che mi dice stamattina c'è un patto tra Grillo, quella parte del PDL chiamata Falchi, e Renzi, quindi diciamo la parte del PD alla quale lei fa riferimento, per andare a votare a marzo. No, ma guardi, queste sono ovviamente cose che vengono dette così perché ognuno si alza la mattina e dice qualcosa, però non c'è dubbio che quello che Renzi ha sempre detto, e io concordo con lui, è che non è che noi dobbiamo tenere in piedi un governo comunque perché ci rassicura, noi dobbiamo tenere in piedi un governo che deve fare, e per fare non è che il problema è di Letta, è che se le condizioni politiche, i rapporti di forza delle forze politiche non consentono di fare praticamente nulla, perché anche la legge di stabilità diventerà un campo di battaglia, è chiaro che a quel punto ci si domanda che senso abbia, perché questo governo è una ferita per tutti, non è che sia una ricchezza. Lo sappiamo perfettamente, noi dovevamo avere un governo di centrosinistra che vinceva le elezioni, che avendo vinto le elezioni si veniva contrapposto da un'opposizione di centrodestra, e purtroppo non è così. Come giudica le mosse del Movimento 5 Stelle? Allora, oggi hanno deciso, l'hanno comunicato poco fa, che non andranno all'incontro con Giorgio Napolitano. Un po' di tendenza Porcellum? No, io penso che questo sia in linea con un attacco costante che loro hanno nei confronti del Presidente della Repubblica, peraltro rispetto a un episodio che è accaduto ieri, che non ha fatto dei dubbi soltanto al Movimento 5 Stelle, che ovviamente si esprime sempre in un modo eccessivo, il tema dell'impeachment, però indubbiamente ieri io sono convinto che Napolitano abbia voluto fare una forzatura sapendo che faceva una forzatura, perché ha sbagliato. Non dico che ha sbagliato, dico sicuramente che non è usuale che il Presidente della Repubblica faccia una cosa del genere. Penso che lo abbia fatto perché si è perfettamente reso conto che lo stallo che io sto cercando di denunciare da 19 giorni, adesso con lo sciopero della fame e da prima, è uno stallo che rischia di portarci a una soluzione che il Porcellum ce lo portiamo appresso per i prossimi 5 anni. E secondo lei ce lo portiamo appresso per i prossimi 5 anni? Se non c'è uno scatto, sì, penso che è difficile. O un Porcellum o qualcosa di peggio. Ecco, il mio terrore in questo momento è che si rischi di fare di peggio. E io invece penso che sia necessario fare qualcosa di meglio, anche per consentire alla politica di recuperare credibilità. Non mi faccia il parlamentare, giochi come se fosse un analista politico. Si cambierà secondo lei la legge elettorale o no? O il prossimo voto si farà col Porcellum? Penso che si farà o col Porcellum o con qualcosa di peggio. Grazie Roberto Giachetti per essere stato con noi. Noi continuiamo a parlare di Partito Democratico, perché avete sentito oggi Matteo Renzi a 24 Mattino. Andate poi, scaricatevi il podcast se vi volete sentire l'intervista per intero. E invece il nostro Daniele Biacchessi, nella sua inchiesta del venerdì, ha sentito gli altri tre candidati e ha chiesto loro le prime tre cose che farebbero da segretario. Sentiamo. È ovvio che nel momento in cui hai tre schieramenti, o fai l'accordo con Grillo, o fai le larghe intese, o si torna a votare. Quindi in questo momento le larghe intese sono il risultato di una legge elettorale che non dà a nessuno la maggioranza. Io non voglio che riaccada più su questo, e voglio che il PD, facendo così, restituisca la speranza. Sarà un po' Guascone il sindaco di Firenze, ma quel Renzi Matteo si prepara davvero a prendere le redini del PD, l'erede del PC, PD, SDS, insieme agli ex comunisti italiani, e dei popolari Asinello, Margherita, cioè i cattolici progressisti, ma pur sempre vecchi democristiani. Un passato da boy scout, rampollo di buona famiglia, un po' modernista, un po' passatista, certamente sbruffone, primo della classe, uno che sa tutto, uno che ti deve spiegare le soluzioni e che a volte perfino prevede il futuro. Renzi è già nei fatti il nuovo segretario del PD, lo dicono i sondaggisti, anche quelli che ci beccano sempre. Le percentuali dovrebbero essere bulgare, e gli altri? Per le primarie del partito previste domenica 8 dicembre, Matteo Renzi gli tocca battere tre candidati: Giuseppe Pippo Civati, Gianni Pittella, Gianni Cuperlo. A loro Cinzia Caserio ha chiesto quali sono le prime iniziative da segretario del PD e quali possono essere le future alleanze politiche. Un tempo, tra i funzionari del vecchio PC lombardo, si diceva che se un militante veniva mandato a Monza, ad esempio, e poi riusciva a vincere, era certamente in grado di pretendere ruoli nazionali. Pippo Civati viene da Monza e in quella città ha vinto molto. La prima cosa che farei ovviamente è cercare di rimettere insieme tutti i candidati e con loro leggere il risultato, perché mi pare che la cosa più importante sia quello dell'unità. La seconda cosa sarebbe quella di parlare con il Presidente del Consiglio Letta per capire a che punto saremo, perché si tratta di cambiare la legge elettorale mentre noi facciamo il congresso. Io spero che il congresso saluti anche una nuova legge elettorale, no? Sia contemporanea le due cose, e si possa quindi anche decidere se tornare a votare o se proseguire con queste larghe intese. La terza cosa che farei è rivolgermi agli elettori. Bisogna assolutamente parlare con i nostri elettori, con i nostri circoli, con i nostri militanti. Quindi sarà un Natale dedicato a quello. Gianni Cuperlo viene da lontano, dall'ultima FIGC. Massimo D'Alema, con cui Cuperlo ha lavorato a lungo, ai tempi dell'esperienza alla presidenza del Consiglio spesso diceva: avevo tre collaboratori, Fabrizio Rondolino e Claudio Velardi casseggiavano. L'unico che invece lavorava era proprio Gianni Cuperlo. La prima iniziativa in assoluto credo sarebbe una campagna obiettivo con un impegno diretto di tutte le organizzazioni del Partito Democratico, mobilitando anche le forze del volontariato, dell'associazionismo, le istituzioni, per toglierci di dosso la maglia nera del paese d'Europa con il più alto tasso di povertà minorile. Pochi lo sanno, è una statistica quasi ignorata, ma un minore su quattro nel nostro paese si ritrova in una condizione di privazione materiale e culturale. La seconda iniziativa che vorrei realizzare è un appuntamento, non saprei come definirlo, forse gli stati generali sull'Italia che verrà, chiedere alle forze dell'impresa, del lavoro, le forze sociali, del volontariato ancora una volta, i giovani, le donne, di potersi riunire per ragionare insieme sull'immagine e l'idea che abbiamo dell'Italia dei prossimi anni. E questa sarebbe la seconda iniziativa. La terza, vorrei fare un appuntamento delle forze democratiche progressiste della fascia sud del Mediterraneo. L'ultimo è Gianni Pittella, che di chance ha meno di zero, ma alla corsa delle primarie concorre lo stesso. La prima cosa è una forte iniziativa in Europa per cambiare il patto di stabilità. Dobbiamo assolutamente modificare questo patto, che è una gabbia per noi. La seconda cosa che farei sicuramente è lanciare un nuovo patto per la rinascita del paese, una rinascita corale e unitaria. Dobbiamo ridare fiducia all'Italia. L'Italia è in grandissimo declino. La terza cosa che farei è un messaggio ai giovani: abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno della vostra carica di entusiasmo, della vostra critica, della vostra voglia di partecipazione. La politica deve cambiare, deve rinnovarsi, ma ha bisogno dei giovani migliori. Pittella, Civati, Cuperlo non hanno alcuna possibilità di diventare segretario del PD, ma comunque si giocano la partita e puntano a rosicchiare consensi a Renzi in una percentuale che può oscillare, compresi tutti e tre, tra il 30 e il 40%. Secondo voi ce la faranno? Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, ci ritroviamo subito dopo e parleremo delle Cinque Terre. Due anni dall'alluvione, è tornato a piovere nei giorni scorsi e naturalmente continuano ad esserci timori. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Datagate, dalle informazioni che abbiamo non risulta un coinvolgimento italiano, dice il ministro degli esteri Emma Bonino. Dichiarazione congiunta ai leader europei: dalla mancanza di fiducia, rischi per la lotta al terrorismo. Legge elettorale. Il Movimento 5 Stelle decide di non andare all'incontro con Napolitano. Notizia di poco fa. Ci andranno invece Fratelli d'Italia, Sinistra, Ecologia e Libertà. Giachetti del Partito Democratico in sciopero della fame per la riforma ci dice: secondo me alla fine si voterà col Porcellum o qualcosa di peggio. Renzi a Radio 24: per la legge di stabilità non serviva il cacciavite ma il caterpillar. E proprio sulla legge elettorale dice: facciamo presto. Tarak Ben Ammar, intervistato da Giovanni Minoli: se vendessero la RAI sarei pronto a comprare. Penso che sia una cosa positiva privatizzare la RAI, la politica che esce fuori dalla televisione. E noi veniamo adesso a ricordare un anniversario, ma in realtà è un modo di ricordare un anniversario anche per ricordare i rischi che si corrono, i rischi che corrono alcune parti del paese. In particolare andiamo nelle Cinque Terre oggi, perché il 25 ottobre del 2011, quelle che ormai vengono definite comunemente bombe d'acqua, insomma, quindi una pioggia particolarmente violenta, 500 mm di pioggia in poche ore, hanno generato quello che forse ricorderete tutti: frane, un'alluvione e 13 vittime. Saluto Vincenzo Resasco, che è il sindaco di Vernazza, uno dei paesi delle Cinque Terre. Benvenuto. Buongiorno. Allora, voglio sapere da lei innanzitutto com'è la situazione adesso, a due anni di distanza, naturalmente. abbiamo visto già dopo poco le foto del prima e del dopo, avete ripulito molto rapidamente, ma naturalmente il lavoro non finisce là, perché nel momento nel quale vengono giù pezzi interi di montagna bisogna rimettere a posto le cose bene e far sì che eventi di questo genere non si verifichino più. Le voglio chiedere come siete messi da questo punto di vista. Punto di vista siamo sicuramente migliorati, è vero, è stato recuperato il centro storico, ma si è anche lavorato su frane e sul canale. Abbiamo eseguito i lavori che erano stati finanziati, lasciando al canale quello che si è preso, lavorando sulla sicurezza del paese. Siamo intervenuti su alcune delle frane, sulle tante frane che sono accadute il 25 di ottobre 2011, abbiamo messo dei sistemi di allerta, abbiamo messo delle reti a contenimento del movimento solido che c'è ancora appeso alle pareti e abbiamo affrontato anche l'ultima emergenza. Ecco, bravo sindaco, io è là che la volevo portare, perché in realtà poi alla fine succede che certe volte il lavoro che si fa, per quanto intenso, non basti, no? Per cui quando sono venute giù le piogge anche nei giorni scorsi, immagino che A, vi siate spaventati, B, qualcosa è successo. Cosa è successo? Non fortunatamente sul fiume, ma su un'opera che era la strada provinciale sulla quale dobbiamo intervenire e non siamo ancora, non abbiamo iniziato i lavori che però sono finanziati e che inizieremo a breve. La situazione è questa. Noi abbiamo un piano di protezione civile molto preciso, sappiamo come doverci comportare, abbiamo i volontari, seguiamo le perturbazioni e abbiamo visto arrivarci questa perturbazione nella notte mercoledì-giovedì verso l'una di notte, che ha scaricato un quantitativo enorme di pioggia. Non abbiamo avuto danni sul fiume, il fiume ha reagito benissimo, abbiamo avuto qualche problema di qualche smottamento, però il paese non è stato assolutamente, diciamo così, interessato. È chiaro che ci sono ancora dei lavori da fare, a fronte di 50 milioni di danni registrati il 25 ottobre del 2011, abbiamo effettuato lavori per circa 10-11 milioni, quindi ci sono ancora delle opere da completare. Ha paura la gente? Avete paura quando piove? No, guardi, io ho letto su un giornale che proprio stamattina, che giustamente si ricordano di questi problemi in occasione degli anniversari, noi però li constatiamo, li tocchiamo di mano giorno per giorno. È chiaro che la gente quando piove ha un motivo di apprensione, ma è normale dopo quello che ci è successo. Il problema è che bisogna essere preparati, bisogna sapere come doversi comportare, c'è un piano ben preciso, sono indicate in paese le vie di fuga anche per gli eventuali turisti che si trovano in queste occasioni, però bisogna seguire queste situazioni organizzate, bisogna organizzarsi per prevenire, non ci prenderanno più alla sprovvista, insomma. Non vi prenderanno più alla sprovvista, gli altri paesi come sono messi? Ma guardi, gli altri paesi più o meno sono messi nelle stesse condizioni, è chiaro che ci sono ancora dei lavori da effettuare. Ieri noi abbiamo fatto una riunione dove avevamo presentato il piano delle opere che bisogna ancora fare, alcune sono finanziate, altre si finanzieranno e si va avanti. Chi pensava di risolvere il problema di Vernazza in un anno o due anni non aveva chiara l'idea della nostra situazione, e quindi sappiamo che dobbiamo ancora lavorare, sappiamo che dobbiamo ancora prevenire. Però dobbiamo anche renderci conto, e questo mi preme sottolinearlo, che non è solo un problema per i paesi alluvionati. Certo, per Vernazza è una particolare attenzione, per tutti i paesi che sono stati alluvionati il 25 ottobre del 2011, però le condizioni climatiche ormai sono estreme. Noi adesso abbiamo un caldo al di fuori di ogni, non è il caldo di ottobre, le situazioni climatiche sono naturalmente cambiate e l'attenzione deve essere sì dei paesi alluvionati, ma di tutti i paesi. Poi in Liguria specialmente, una terra fragile dove abbiamo il mare e si passa subito ai nostri pendii che sono abbastanza scoscesi, quindi bisogna fare attenzione a queste situazioni. Grazie a Vincenzo Resasco, sindaco di Vernazza, per essere stato con noi. Noi adesso, in chiusura di questa parte, torniamo a parlare di politica, perché quasi nel silenzio domenica 27 ottobre si vota in Trentino Alto Adige. I trentini devono eleggere il consiglio provinciale e anche direttamente il presidente, e gli altoatesini solo i consiglieri che voteranno per il presidente. Sentiamo. La novità più vistosa in Alto Adige è la rinuncia alla corsa elettorale di Luis Durnwalder, presidente della provincia dall'89 e leader della Südtiroler Volkspartei, il partito di centro che da sempre detiene la maggioranza assoluta in consiglio. Padrone di fatto della politica altoatesina per oltre 20 anni, il cosiddetto principe vescovo passa il testimone ad Arno Kompascher. Suo il compito di mantenere la maggioranza, tenendo testa agli altri, primi fra tutti il partito di destra Freit Lichen, Libertà, e il movimento ultranazionalista della passionaria tirolese Eva Klotz. In secondo piano i partiti di lingua italiana, che rappresentano solo il 25% dei cittadini. Se in Alto Adige sta finendo l'epoca di Durnwalder, a Trento si è conclusa da poco quella di Lorenzo Dell'Ai, presidente della provincia per 13 anni. Dopo le dimissioni per candidarsi alle politiche con scelta civica, la provincia è passata nelle mani di Alberto Pacher, che però non ci sarà alle elezioni di domenica. Il grande favorito, secondo i sondaggi, è Ugo Rossi, centrosinistra. Si presentano invece divisi i partiti di centrodestra. Giorgia Wiedemann, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Datagate, il ministro degli esteri Emma Bonino dice che dalle informazioni non risulta un coinvolgimento italiano. I leader europei in una dichiarazione congiunta dicono della mancanza di fiducia a rischi per la lotta al terrorismo. Movimento 5 Stelle e la Lega decidono di non andare all'incontro con Napolitano sulla legge elettorale. Ci andranno invece Sinistra, Ecologia e Libertà e Fratelli d'Italia. Se la RAI è vendibile, noi siamo qua, dice Radio 24 Tarak Ben Ammar, intervistato da Giovanni Minoli. Intervistato sempre a Radio 24, invece da Alessandro Milan, Matteo Renzi dice per la legge di stabilità non serviva il cacciavite ma il caterpillar. È il momento di America 24 e di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24. Buongiorno Simone da New York, Mario Platero. Dass die Arbeit der Bundeskanzlerin eine sehr schöne inspirierende Arbeit dahingehend ist, dass sie immer wieder neue Probleme haben. La signora Merkel è stata un po' la bandiera della rivolta europea nei confronti degli Stati Uniti. Le notizie di ieri ci dicono che forse Washington stava spiando addirittura 35 capi di Stato di governo stranieri. Ci sono una serie di coincidenze, per esempio fra questi capi di Stato stranieri sappiamo che c'era Dilma Rousseff, presidente del Brasile. Dov'è la coincidenza? Beh, il 23, appena 2 giorni fa, la Rousseff doveva essere a Washington per una grande cena di Stato in suo onore dopo un incontro a San Pietroburgo con Barack Obama. Gli ha comunicato che molto probabilmente avrebbe cancellato la sua visita di Stato e così ha fatto, proprio perché si lamentava di intercettazioni che in quel caso avevano a che fare, sembra, con lo spionaggio legato a certe concessioni petrolifere al largo della costa brasiliana. Le compagnie petrolifere americane volevano competere e qualcuno dice che forse hanno avuto informazioni privilegiate. Insomma, la faccenda si complica, trova terreno fertile dal punto di vista del sensazionalismo, perché è chiaro che dietro una vicenda di spionaggio, soprattutto uno spionaggio che riguarda capi di Stato e di governo, lo scandalo si allarga tra l'altro anche all'Italia, l'opinione pubblica reagisce. Però vorrei dire, c'è il sensazionalismo, ci sono appunto le intercettazioni delle telefonate di Angela Merkel, della Rousseff, di Hollande e di altri capi di Stato e di governo stranieri, come vi dicevo c'è dunque la protesta pubblica, ma poi c'è la sostanza è questa, i telefoni della Merkel erano protetti. Dunque, la tecnologia digitale americana per decodificare pareti crittografate impenetrabili evidentemente è superiore a quella conosciuta. Ecco, questa è l'altra faccia della medaglia, quella che interessa di più gli esperti che seguono gli sviluppi dinamici e competitivi fra le nazioni. E su questo, sulla superiorità americana, sulle ricadute strategiche ed economiche di questa presunta superiorità, che oggi si concentrano gli addetti ai lavori dopo le rivelazioni di Snowden sui segreti operativi della National Security Agency, tra cui appunto le intercettazioni in Germania. Ecco, questo ci porta a due conseguenze che sono per ora sconosciute. La prima, quali saranno le reazioni dei paesi nemici come la Cina o la Russia davanti a queste presunte superiorità tecnologiche americane? Perché se noi parliamo di superiorità tecnologica per intercettare un telefonino, che questo era un incarico affidato alla NSA e poi la NSA lo affidava, come sappiamo, a dei consulenti esterni, dunque non c'erano dei livelli di tight security elevatissimi, al punto che uno come Snowden si è preso il suo materiale, è andato prima in Cina e poi è finito in Russia. Questo mi ricorda un altro episodio, secondo me dal punto di vista storico non dissimile dall'impatto che sta avendo e continuerà ad avere questa fuga di notizie. Klaus Fuchs was arguably one of the most important people in 20th century history. Yet very few people have actually heard of him. Avete sentito una ricostruzione della vita di Klaus Fuchs? In America se ne parla molto, e lo scienziato che lavorava al progetto Manhattan ai laboratori di Los Alamos, animato da simpatie comuniste, dalla missione di voler riequilibrare i rapporti di potere fra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. E dunque cosa fa alla fine degli anni 40? Porta i segreti della bomba atomica anche a Mosca. Da lì parte poi la corsa agli armamenti. In effetti c'è un equilibrio strategico che si sviluppa, la deterrenza, la guerra fredda e il resto lo conosciamo. Il danno principale per l'America dalle rivelazioni di Snowden, secondo me, dunque non sta tanto nel pericolo che si possa, che posso dire, inceppare il negoziato per la creazione di un'area transatlantica di libero scambio, perché io sono convinto che questo negoziato andrà avanti e nell'interesse di entrambi. Certo, i francesi, bisogna dirlo, sono sempre pronti a cercare una scusa per ritardare l'apertura dei loro mercati protetti. Ma vi dicevo, l'impatto di queste rivelazioni di Snowden è in una nuova prova. Se si possono penetrare le comunicazioni protette del presidente brasiliano Dilma Rousseff, il presidente francese Hollande, vuol dire, come vi dicevo, che la tecnologia superiore esiste. If I want to know what Chancellor Merkel is thinking, I will call Chancellor Merkel. E qui forse c'è un po' di ipocrisia del presidente Obama. Beh, lui dice, ma in fondo io non ho bisogno di questi rapporti delle spie, io parlo direttamente coi leader. Beh, non è vero, perché questi rapporti vanno direttamente a lui e possono essere molto utili nel momento in cui deve chiudere dei negoziati commerciali. C'è una storia in tutto questo, che l'America ha subito anche lei l'attività di hackers cinesi che hanno penetrato i suoi sistemi di protezione. Ci sono due direzioni da parte americana per proteggersi da questa vulnerabilità. C'è una strategia offensiva e una strategia difensiva. Il tema è talmente caldo che due giorni fa sono stato da Google Ideas, che aveva organizzato a New York, all'albergo Conrad, un albergo avveniristico che quindi era adattissimo al caso, un summit dedicato proprio ai conflitti in un mondo interconnesso. As we think about cyber weapons, what happens when those wielding them are organized? Ho fatto ascoltare una voce dei partecipanti al dibattito. Il tema, al di là del software, il futuro dei conflitti. C'è una guerra cibernetica che sta andando avanti. Questi episodi che stiamo testimoniando in questi giorni fanno semplicemente parte di questa guerra che avrà delle ricadute inevitabili dal punto di vista economico, industriale e naturalmente sociale. Non solo software di gestione remoto, dunque, che ne so, software per manovrare per esempio i droni quando vanno nei loro attacchi, ma robot impegnati nel campo di battaglia, l'utilizzo di laser superpotenti in grado di centrare, distruggere un obiettivo fino a un miglio di distanza con enorme precisione, mini carri armati automatici, sono solo esempi questi delle ricadute sulla reindustrializzazione in arrivo dall'utilizzo offensivo o difensivo della tecnologia digitale. Avremo mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica, ma vi chiedo di scrivermi su Twitter @MarioPlatero, di seguirmi su america24.com ed eccoci alla canzone del giorno. I Kings of Leon cominceranno il loro tour nordamericano qui a New York 14 febbraio, San Valentino al Madison Square Garden. Sta promuovendo questo quartetto di Nashville il suo ultimo album Mechanical Bull, dunque Kings of Leon, Wait for Me. Purtroppo nemmeno oggi, caro Mario, riusciamo a far sentire il disco. Peccato, peccato. Grazie Fabio Cantadori in regia, Laura Faggin in redazione. Grazie a tutti voi per l'ascolto. A tra un attimo con il giornale radio. Effetto Giorno torna lunedì alle 13.